Roma Trastevere, 5 dicembre 1973. Care Eleuterio, sono qui nella mia prima casa insieme con la mia prima sorella. Io sono triste. Mia sorella è leggermente arrabbiata, ha scaraventato il divano in terrazza dicendo che con te potrebbe fare molto meglio, sei più leggero. Guardo il calendario appeso al muro e io penso che il calendario è l'agenda sul quale il tempo scrive gli appuntamenti con i giorni dell'anno. Penso anche che sei un cretino. Ristrutturare gli uffici è un fatto importante, sempre tua. Roma Parioli, 6 dicembre 1973. Imprevedibile, sempre mia. Mi dispiace che tua sorella sia leggermente arrabbiata. La rabbia è un fatto serio. Fossi in te, chiamerei subito il veterinario, se se la sente di affrontare il tipo di animale. La prossima volta che ti azzardi a ristrutturare gli uffici, ti sparo, con affetto naturalmente. Così, oltre a liberarmi di te, eliminerò la causa che mi rende cognato di una cosa che dice di essere una donna, ben sapendo di essere una riproduzione al naturale di quel famoso rudere che è la tomba di Cecilia Metella. Eleuterio, ho scritto, chiedo scusa, ho confuso le date. È la tomba di Cecilia Metella che è stata copiata da una riproduzione di tua sorella. Roma Trastevere, 7 dicembre 1973. Care Eleuterio, non ti chiamo neanche gatto, perché da gatto amico ci corre poco e non vorrei che tu ti ritenessi vezzeggiato. La mia sorellina ha disegnato baffi e occhiali su un cuscino. Ci ha scritto il tuo nome e gli ha dato fuoco. Dice che è una prova generale. In cielo è uno spicchio di luna. E io penso che uno spicchio di luna è una luna piena che ha applicato il razionamento della luce solare. La ristrutturazione degli uffici mi convince sempre di più, sempre tua. Roma Parioli, 8 dicembre 1973. Inammissibile, sempre mia. Sento la tua mancanza. Domani sera viene a cena Giovanni. Dice sempre che sono un uomo felice. Vorrei fargli cambiare opinione. Voglio che ti veda. Torna. Succedono cose strane. Alcuni dei tasti neri del pianoforte sono scomparsi. E ieri, quando li ho puliti, c'erano ancora. Eleuterio, ho scritto. La portinaia ha ritrovato i tasti neri del pianoforte. Dice che per lucidarli non ci si deve spruzzare schiuma da barba. Accidenti alle bombolette spray. Sono tutte uguali. Roma Parioli, 9 dicembre 1973. Care Eleuterio, micione, rieccomi qui, il che significa che sono tornata, non sono più da mia sorella. Il tappeto grigio è ritornato rosso appena ho tolto la cenere che c'era sopra. Ho tolto anche le tue scarpe che erano sul tappeto verde del tavolo da gioco. E io penso che il tavolo da gioco è il prato sul quale si sdraiano regine, fanti e re con la scusa del pocherino. Penso anche alla nostra ultima lite, della quale ricordo tutto. Sei uscito dal tuo studio come una belva. Chi ha toccato la mia scrivania? Parli della scrivania che sta nel tuo studio? Parlo di quella che sta in cucina. Eleuterio, perché hai messo la scrivania in cucina? Perché in studio ci stava meglio la lavastoviglie. Io non posso lavare i piatti con la scrivania. Ma che razza di discorsi fai? Ne esiste una di scrivania in questa casa, una sola. Di quale scrivania vuoi che parli se non della mia? Allora sì, chiaro. Secondo me tuo padre e tua madre in una sera di sbronza hanno detto facciamo follie. E la prima che hanno fatto sei tu. Io sono la seconda, la prima è la mia sorellina. Quella non è una follia, è un atto criminale. Ti ho detto mille volte che non devi toccare le carte mie. Non trovo più niente. Ho ristrutturato gli archivi nell'intento di snellire la prassi giornaliera. Ma che diavolo dici? Ho sistemato le tue carte in modo da sburocratizzare le ricerche. E mia sorella è perfettamente d'accordo. L'avverbio perfettamente non può essere comunque usato quando si parla di tua sorella. Avevo messo sulla scrivania le ricette del cardiologo. Dove sono finite? Nella libreria, tra le pagine del libro cuore. Mi sembra giusto. Ah, ti sembra giusto, eh? E tutte le altre carte? Le fatture, per esempio, dove le trovo? Quelle pagate consideriamole evase, quindi non possono stare che nella libreria accanto a Papillon. Accanto a Papillon ci saresti dovuta stare tu. prima dell'evasione. Voglio le carte come stavano, è chiaro? Sei un conservatore, Eleuterio. Prima non ci si capiva niente, adesso anche mia sorella è in condizione di trovare qualsiasi cosa. Ma sorella dovrebbe trovare solo il domatore giusto che la portasse nel circo giusto. Dove hai messo le copie delle dichiarazioni del reddito? Sempre nella libreria, vicino al caro bugiardo. E allora adesso io ti strangolo. Faccio redigere il regolare certificato di morte e lo metto nella libreria vicino a Spoon River. O se preferisci vicino a Piccola Città. Eleuterio, stai calmo. Eleuterio, non mi guardare in quel modo. O torno da mia sorella. Non farai in tempo questa volta perché io... Medio e male, dittatore. Sei contro le riforme e gli snellimenti. Me ne vado. Me ne vado. Ricordo tutto perfettamente. Ma quando rientrerai farò come se nulla fosse accaduto. Ciao. Ciao, Eleuterio. Stavo pensando che forse bisognerebbe riorganizzare tutto il tuo guardaroba con un po'...